Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix. Oggi è una bella giornata assolata. Sembra impossibile che sia il giorno dei morti. È cambiato il tempo, un luogo comune di quelli che, di cui abbiamo discusso venerdì. Oggi il giorno dei morti normalmente si metteva il cappotto. Era il giorno della fiera dei defunti, si mangiava il croccante e le fave dei morti, dolce fatto di pasta di mandorle. Era un giorno meraviglioso anche perché si andava al cimitero. Io ricordo da bambino un cimitero bellissimo, pieno di statue. C'era una statua in particolare che mi colpiva, era un bambino morto, piccolissimo, ottocentesco. Nella mia città c'era un bel cimitero monumentale, poi so che in parte lo hanno venduto. Sì, si sono vendute le tombe, che erano belle, quasi dei monumenti. Tutti gli arricchiti della mia città hanno potuto comprare la tomba nel cimitero monumentale. Beh, c'era un bambino seduto sopra una sorta di rovina, piccolo, con i capelli a caschetto, in un grande fiocco ottocentesco. Passava una bambina e diceva: che fai qua? E diceva: sono morto. Beh, mi ci portavano a me una volta l'anno al cimitero a vedere i nostri poveri morti e mi fermavo a chiacchierare con quel bambino. Comunque aveva un senso, c'era un buon odore di mortella, c'erano dei beviali con la ghiaia, c'erano le statue che erano sempre le stesse. Aveva un senso il 2 novembre andare a visitare i morti. Perché? Perché era il cimitero, perché era il luogo in cui si andava a vivere dopo morti, a vivere, in attesa di sopravvivere o di risorgere o qualcosa del genere. Comunque si andava lì, lo sapevamo. Cosa sono oggi i cimiteri? Beh, la più radicale, drammatica e realistica lettura me l'ha fatta una mia cara amica. Giorni fa aveva accompagnato il fratello morto al cimitero e ha detto: lo sai, il furgone che lo portava al cimitero di prima porta c'ha scritto AIMA, è la stessa municipalizzata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sì, perché nei cimiteri di oggi noi siamo dei rifiuti speciali da smaltire, altro non siamo. Oggi il problema del post mortem, o perlomeno del luogo di elaborazione del lutto, è semplicemente un problema di igiene municipale, di smaltimento di rifiuti speciali, semplicemente questo. E cosa fare quindi? Cosa fare oggi? Oggi nessuno si ricorda perché è passato un lungo ponte, un ponte fantastico, meraviglioso, l'unico ponte permesso, uno dei pochi ponti di quest'anno, del fatto che oggi bisognava pensare ai morti, ma oggi si torna a lavorare perché il ponte è finito. I morti sono stati sacrificati da Halloween, festività molto disprezzata e molto osteggiata perché ricorda il mondo pagano, ma tanto eravamo preoccupati ad aprire le chiese come alternativa alla demoniaca e pagana festa di Halloween che oggi nessuno si ricorda del fatto che oggi bisognava pensare ai morti. Stanno lì a aspettare dentro le loro tombe. Verranno quest'anno a portarci fiori? Verranno a darci una pulitina alla lapide? No, non verrà nessuno perché il ponte è finito e quindi oggi noi parliamo dei morti. 800 24 0024. Eccola qua, ti piace? Bella, eh? Nuova, nuova, mai usata, unico proprietario. Ho fatto un lavoro pulito, perché te lo meriti. Grazie, che persona gentile. Non mi ringraziare, salisci. Ma non sarà un po' troppo dura? No, è a regola d'arte. Dai, monta, salisci. Lì. Che faccio? Mi stai dritto? Dritto, rovesciato, sono attenti, come ti fai? Giù, ecco. Come sto? Stai in amore. Che persona gentile che è lei. L'ermetto, lo leviamo. Ah, l'ermetto. Sì, mettiamolo qua. Scarpe, che faccio? Me le levo le scarpe? Vedi? No, troppo usate, tieni. Ah, se tenga le sigarette, va, tanto io avevo pure deciso di smettere. È oro? È oro, sì. È un ricordo di famiglia. La mia trisavola lo diede alla bisnonna, la bisnonna lo diede alla nonna e la nonna lo diede a mia madre. È un ricordo affettivo. Bello. Che lo vuole? Mortacci. No. Giuseppe Sansonna, mortacci, una parola che a Roma vuol dire tanto, li mortacci tua, è una maniera per inveire anche su ciò che non ha più vita, per andare alle radici, ma poi anche una forma affettuosa, mortacci, come dire, ma guarda, è come dire, sì, in fondo, ti prendo per tutto quello che sei, anche il tuo essere figlio di puttana fa parte della tua umanità. È un modo per dire ti voglio bene, si dice a Roma, mortacci tua, a volte, una sorta di forma affettiva. Te ti ricordi mortacci tua, da bambino dove andavi? Io andavo, vado sempre al cimitero di Canosa, che per me era sempre un luogo, è sempre un luogo di riflessione, osservato da 100.000 occhi, di cui ho sempre cercato di intuire le vite dietro quelle foto cristallizzate, no? Morti dell'Ottocento, facce verghiane, rurali, morti più recenti, morti con delle frasi. Una è appunto qui nel grottesco, che è inevitabile anche quando si parla di vita e di morte, c'era una faccia digrignata che ti osservava lì. E qui vi aspetto, era la didascalia minacciosa, ma ai limiti del comico. Beh, era obbligatorio, un piccolo centro, lì si finiva. Non c'erano alternative, l'unico stargate verso l'eternità era il cimitero del paese o della cittadina. Oggi è un po' diverso, perché oggi sono dei grandi condomini. Sai vedere alla periferia di Roma, prima porta, quello che è il nuovo cimitero? È un quartiere nuovo, un nuovo quartiere, ma di quelli terribili, brutti. È una speculazione edilizia anche nel quartiere dei morti. Terrificante, cemento. Per trovare la tomba ci vuole, non so, ci vorrà il GPS fra un po' per ritrovare il proprio morto. Bisogna andare su delle mappe complicatissime. Dei ragazzi hanno fatto un'applicazione, non al cimitero di Roma, un altro cimitero, per permettere alle signore di ritrovare il proprio defunto in questi cimiteri enormi. Ci si perde, occorre veramente un navigatore. Beh, tu ricordai un film di cui abbiamo parlato spesso, che è un borghese piccolo piccolo, cioè Sordi, che quando il figlio muore è ucciso da un rapinatore e non riesce a trovare un posto per questa cassa, e dice: non ti si trova un posto da vivo per lavorare e neanche da morto. Ogni tanto esplodeva una cassa, in questo deposito di casse lo andavano a portare i fiori per mesi, perché aspettavano appunto di essere smaltite, di essere portate alla discarica finale. Ogni tanto esplodeva una cassa e si vede che lui, mentre porta i fiori in questo sorta di deposito di cassa, a un certo punto sente un botto, esplode una cassa, cioè ne esplose un altro. Invece nel film che abbiamo ascoltato, che è Mortacci dell'88 di Sergio Citti, titolo suggerito da Pasolini, abbiamo un gasman sordido con questa fascia intorno già da vivo, ma essere vivo e essere morti è la stessa cosa, diceva Pasolini, nella terra vista dalla luna, a questa fascia che gli lega la mascella e fa il becchino e accoglie Sergio Rubini, che è il volto dell'innocenza. Sì, la fascia blocca mascella è un classico di tutte le rappresentazioni della commedia italiana, anche 47 morto che parla, sia Totò che De Filippo, si stendono a letto e si mettono il fazzoletto reggi mascella. Esatto, e invece qui Rubini arriva ed è un eroe di guerra, cioè è ancora vivo, ma torna dal Libano da una missione di pace e scopre che il suo paese lo ha creduto morto e vive e campa sul business sulla sua morte, cioè lo celebra con appunto la sua stanza, è diventato un oggetto di culto, di visite guidate, c'è tutta un'economia paesana che vive su di lui, quindi lui deve morire per il bene del paese. Allora si fa uccidere da Gassman, facendosi chiudere da vivo in questa cassa. Gassman gli preleva tutti gli ori, gli effetti personali utili da rivendere, e lo chiude e gli fa cantare questa canzone, così abbrevia la sua agonia facendo finire prima l'ossigeno. Insomma, c'è la crudezza poetica di Sergio Citti che racconta questo limbo, questa Spur River romanesca, in cui questi morti sono sospesi finché ci si ricorda di loro, cioè continuano a vivere, a muoversi, a sciamare per le bare davanti alle tombe finché qualcuno si ricorderà di loro. Cioè Galeazzo Benti, che ha inventato chi dorme non piglia pesci, il detto chi dorme non piglia pesci, quindi è destinato a essere ricordato per tutta la vita perché l'ha detto e quindi è stato il primo a dirlo. Noi infatti ci ricordiamo e amiamo e abbiamo ancora ricordi personali legati alle città dei morti, proprio perché immaginiamo lo sciamare delle anime, soprattutto nel giorno dei morti, che attendono i vivi, che vanno a portare il ricordo, il conforto a queste persone che più non ci sono. Ma quello che stiamo dicendo ha senso per voi? State rendendovi conto che oggi era il giorno tradizionalmente dedicato ai defunti? Ha senso avere un giorno dedicato ai defunti? E soprattutto cosa si fa nel giorno dedicato ai defunti, quando è l'ultimo giorno di un grande ponte, quindi necessariamente deve essere un giorno come gli altri? 800 24 0024. Perdoni signora, non ha visto per caso un... Capisco il suo dolore. Si lasci il braccio. Chi prende la cassa? Io, anch'io la porto. Ragioniere? Sì? Ma non capisco, ma aveva marito? Chi? E il conte, vede la corona? Non lo so, si informi. Sì, aspetti un attimo. Scusi, ma questo è il funerale del conte Vigna de Ribava? No, vedova Ricci. Ah, ragioniere, c'è. Credo che abbia sbagliato funerale. Perché? È la vedova Ricci qui. Ma è la vedova Ricci, no? No, tenente Gambardella. Tenente Gambardella. La sfigaggine degli impiegati fantozziani continua e si propaga anche nei momenti estremi. Vanno in un estremo tentativo di leccaculaggio aziendale al funerale di un parente, di un congiunto, di un grande mega direttore, del mega direttore stesso, non ricordo che muore di rosolia a 106 anni. Se il mega direttore Granduff muore di rosolia a 106 anni, quindi loro vanno e sbagliano drammaticamente. La morte è un fatto burocratico aziendale per loro, appunto, da prima, e quindi gogolianamente Paolo Villaggio gioca con questi cliché, cioè la vedova inconsolabile, l'infomane da cui liberarsi con un colpo di tacco ben assestato, il funerale che viene sbagliato e quindi mentre stanno portando questa cassa del morto sbagliato l'abbandonano e la cassa cade, e poi appunto arrivano a questo funerale. Cioè ci sono funerali in cui spesso diventa un luogo conviviale, perché la morte non interessa a nessuno, del morto in questione non interessa a nessuno, ma diventa un rito stanco, un rito appunto come dicevi tu di ossequio aziendale. 800240024, vi vedo un po' stanchi, non è uno di quegli argomenti di cui fa tanto piacere parlare, ma parliamone oggi, parliamone con lo spirito con cui in Messico oggi è il giorno di maggior festa, il Dia de los Muertos, è il giorno in cui attendono tutto l'anno i bambini, è il giorno in cui si mangiano teschie di zucchero, in cui le calaveras intrecciano balli, in cui i morti entrano a far parte della vita dei vivi, ma in fondo è così, noi siamo talmente circondati oggi, e ritorno allo spunto legato alla giornata di Halloween, da morti viventi. Guardare una puntata del Grande Fratello edizione 12 è una rassegna di zombie, di mummificati e mummificate, anche se sono soltanto ventenni. Abbiamo perso il senso del passaggio, il senso del trapasso, il senso del cambiamento. Ma oggi qual è il luogo in cui noi elaboriamo questo grande fantasma, questa signora con la falce in mano che tanto ci terrorizza, ma è così intensamente intessuta dal nostro quotidiano, tanto da stimolarci a vivere, a essere felici, a produrre, ad amare, ad accoppiare, a fare qualcosa per lasciare una traccia? Qual è il luogo se non è più il cimitero? Se non esistono più i cimiteri, se i cimiteri sono diventati delle grandi discariche di rifiuti speciali umani o sono diventati dei terribili condomini, qual è il luogo in cui elaboriamo il senso della morte? 800240024. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Certo. Sì. Allora, io volevo intervenire a proposito del giorno dei morti. I morti vanno ricordati sempre, soprattutto se poi c'è stato un legame affettivo. Sì, ma non è che ce li ricordiamo sempre, siamo sinceri. Certo. Io devo dire francamente che è sempre presente in me, le persone care sono sempre presenti e comunque rappresentano un momento anche di confronto e di dialogo. Ma allora se li ricordiamo sempre, a cosa serve il cimitero? Il cimitero secondo me serve a poco. Serve a poco perché questi sepolcri foscoliani del ricordare le persone. Beh, quelli servivano però, scusi, quelli avevano un senso. Io ho il mio senso fanciullesco della morte, scusi, finisco, poi la lascio tutto. Sì. Che è la mia, è l'unico parametro per misurare la differenza tra vita e morte, perché quando ti muore qualcuno lo portano al cimitero, ti ricordi il luogo dove l'hanno messo, e l'imprinting è quello della fanciullezza. Poi quando sei grande, i morti ti sovrastano, ti muoiono gli amici, ti muoiono le persone care, diventano tanti, comincia a contarli. Beh, è proprio legato a un luogo che esteticamente mi dava, per la mia cultura, per la mia nascita, per la mia collocazione esistenziale, mi dava il senso della morte. Però non ci sono più questi cimiteri foscoliani. Infatti vediamo la differenza che c'è tra a Roma il cimitero del Verano, il cimitero monumentale, e il cimitero di Mia Porta, come lei diceva precedentemente nella sua apertura, è qualcosa di orrendo. Lei pensa che il furgone dell'AIMA che porta i morti, lo stesso che porta la spazzatura? Certo, c'è un regolamento cimiteriale che se lei lo legge e approfondisce, forse c'è anche la possibilità di avere, dopo nell'ipotesi di cremazione attraverso l'inceneritore, di avere le ceneri come fanno in altri stati. Noi vediamo in questi film americani che ogni tanto la libertà ritorna, come in India, ritorna alla natura. E cosa questa che io non vedo molto pubblicizzata, la possibilità di avere con sé quelle persone che sono state ma se uno vuole lo può fare, ma quello non risolve il problema generale. Il problema generale è che abbiamo distrutto, abbiamo eliminato, in nome proprio del tracollo dell'estetica che già ha colto le nostre abitazioni, le nostre città, anche il luogo di elaborazione del lutto, anche il luogo dove pensiamo che riposino in pace i nostri morti. E questo secondo me è una grave ferita nella nostra emotività, nel nostro senso della vita, nel nostro equilibrio. Giuseppe Sansone. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna, appunto, cioè, diceva Foscolo, cioè, il discorso è la memoria che evoca passeggiare per questi viali. A me, per esempio, il cimitero di Canosa, che è un luogo caro, è un posto che attraverso queste, anche queste tombe ottocentesche, liberty alcune con queste sorta, aveva un fascino anche evocativo, creava un passaggio dell'immaginario. Del resto il morto, la morte è anche un momento dell'irruzione del surreale nella vita, cioè in cui l'eterno presente in cui ci illudiamo di vivere subisce una spezzatura e conduce a una riflessione inevitabile tutti, insomma. Sì, anche perché diciamo che la nostra unica iconografia della morte è proprio legata all'Ottocento, l'editto di Saint-Cloud, prima non esistevano nemmeno i cimiteri, certo. Quindi noi ancora siamo forse vittima, forse è un nostro problema, forse come ho già ipotizzato in altre trasmissioni, i nativi digitali non avranno più bisogno di cimiteri perché la memoria sarà racchiusa in un supporto digitale in cui sarà tutta la loro vita, non ci sarà più bisogno di andare a vedere la foto scolorita incisa su ceramica, su una lapide, ma apriremo il supporto USB o non so quale altra forma ci sarà da qui a qualche anno, in cui sarà tutta la vita raccontata del nostro trapassato, lo vedremo continuamente. Sentiamo Valerio che è dalle tue parti. Valerio, buongiorno, chiudo la radio. Pronto? Eccomi. Io volevo riportare un'usanza, ecco, io sono di origine pugliese e mi ricordo quando ero piccolino, quando ero bambino, che mia mamma il giorno dei morti, appunto il 2 novembre, apparecchiava la tavola con 9 pietanze, imbandiva proprio la tavola con 9 pietanze e c'era la credenza, l'usanza appunto di credere che i defunti della famiglia sarebbero venuti poi a benedire queste 9 pietanze. E quali erano queste pietanze, se le ricorda? Ma varie, non comunque era un pasto completo. Forse una in particolare era il grano con del vincotto, ma ecco, non vorrei proprio entrare nello specifico perché erano proprio delle pietanze molto varie, anche dei dolci tipici che venivano fatti proprio il giorno dei morti. Ed è un ricordo molto bello che mi porto appunto dietro. Andiamo avanti con Katia. Katia. Buongiorno. Io volevo dire invece che a me i cimiteri non piacciono, mi allontanano dal morto. Sono, almeno quelli in Italia, sono troppo tristi, oppure monumentali. Io ho già pensato che quando morirò mi farò buttare in un fiordo, già il permesso del governo norvegese. Sì, ma non è che vorrà venire quello che rimarrà di lei avrà molta sensazione di differenza fra il fatto che lei è buttata nel fiordo seppellita. No, io penso che il morto viva nel ricordo di una persona, non... Eh sì, ma non nella scoria organica. No, nel ricordo di una persona. Sì. Vabbè, gli piace questa idea romantica di farsi buttare in un fiordo. Non è quello, è che io i miei morti me li ricordo sempre, ci penso, quelli a cui volevo bene li ricordo tutti i giorni, non è che ho bisogno di andare al cimitero. Sì, però siccome ce n'è stato, i cimiteri sono stati costruiti, i cimiteri fanno parte della paesaggistica, dell'iconografia dei nostri ricordi, perlomeno nella nostra attuale collocazione spazio-temporale. Siccome i cimiteri stanno diventando un'altra cosa, stanno scomparendo, noi parliamo, quando diciamo cimitero, allucinamo un luogo dell'immaginario che non esiste più nella realtà, se non cimiteri monumentali in cui non ci sono più nemmeno i morti, c'è polvere, ci sono le persone che hanno avuto il privilegio di essere morte, seppellite in un certo periodo, o quelle che hanno lasciato una traccia nella storia. I cimiteri normalmente intesi, quelli delle metropoli, sono delle grandi discariche, quindi dobbiamo oggi metterci, chiarire il concetto di cimitero. È una cosa che, utile o non utile, piaccia o non piaccia, noi abbiamo in mente cimitero dei cipressi, delle tombe, degli uccellini che cinguettano, l'odore di mortella, le lapidi, la ghiaia sotto i nostri passi, questo abbiamo in mente, ma non esiste più se non in qualche fortunato paesino di campagna o di montagna. Ecco, qual è il senso oggi del cimitero attualmente? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. È morto un ladro, è morto uno della leggera, uno che fin da piccolo si era distinto per la furberia, per la fantasia, per l'abilità, per il coraggio. Un ladro rubava da circa 43 anni e non si era mai tirato indietro, e rubava malgrado ci avesse pure tanti altri mestieri nei quali eccelleva. l'attore comico, il danzatore, il pittore di scena, il fabbro. Sì, signori! Albertone avrebbe potuto essere uno di quegli uomini che passano da onesti. Invece no, lui rifiutò l'ipocrisia. Giocò tutte le carte allo scoperto, non si annascose, non finse. Lui non rubava sul peso, lui non giocava in borsa. Lui non sfruttava la gente, rubava. Al mondo si presentava tale e quale era. Eccomi qua, sono Albertone, sono un ladro. E qui, davanti a lui, davanti all'amico morto che ci ha lasciato, morto come tanti altri lavoratori per un incidente sul lavoro, io... Certo, anche il ladro quando muore merita l'epitafio funebre. Una volta morto non ruba più niente a nessuno. Chi è stato derubato non ha più senso di avere astio nei confronti di una persona che non esiste più, e quindi Proietti fa l'elogio funebre del ladro. Sansonna, di cosa stiamo parlando? Il film è di Elio Petri, La proprietà non è più un furto, un film metaforico che parla appunto della società capitalistica in cui questo impiegato di banca Flavio Bucci si ribella contro il macellaio usuraio Tognazzi. Ma qui è una parte marginale del film in cui appunto muore Mario Scaccia, muore questo ladro, e c'è questo elogio funebre fatto al Verano con lo spirito di Gioacchino Belli, quel disincanto davanti alla morte che Proietti incarna in questa sorta di monologo. In fondo la morte annulla le parole, annichilisce le parole, le rende sempre retoriche, quindi qui forzare anche sul grottesco ha forse un senso anche liberatorio. E spesso è il silenzio, che la morte merita il silenzio anche dei vivi, spesso, spessissimo, per non incorrere nel ridicolo. Sì, le parole spese su un morto sono parole che servono soltanto ai vivi. Il morto non sa più che farsene delle parole dei vivi, perché i suoi problemi sono di ben altro tipo a quel punto. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Le ruberò poco tempo perché, guarda caso, c'ho davanti proprio il muro del cimitero, sto quasi per entrare. Dove? Quale cimitero? Milano, quello di Chiaravalle. Che forse resiste ancora un po' ancora un qualcosina, la ghiaietta, molte tombe, ormai quasi tutte le tombe sono inumazioni, quindi sottoterra, non c'è spazio per loculi. Da quel punto c'è molta gente che va al cimitero oggi, perché non me ne rendo conto se ci siano ancora le file. Devo dire abbastanza, essendo un giorno lavorativo. Nei giorni scorsi invece mi è capitato di passare anche davanti a altri cimiteri e effettivamente c'era un bel traffico. Chi ha approfittato del ponte per andare al cimitero, saggiamente c'è già stato. Chi non è andato via. E niente, io vado, allora innanzitutto anch'io non è che provo, cioè non mi piace troppo andarci. Per me mio papà, che è mancato il 21 agosto, ce l'ho qua davanti, ho la sua foto sul deflettore della macchina, sembra proprio che mi guardi. E il mio modo di onorarlo è così, ogni tanto magari ci parlo anche. Mi piace molto come fanno i messicani. Io sono stato in viaggio di nozze in Messico e uno delle guide diceva che lui appunto il giorno dei morti si portava due casse di birra, una per lui e una per suo padre, ovviamente se le beveva tutte lui, e poi diceva: io non so se mio papà era ubriaco, io lo ero, però almeno così era un modo per stargli vicino, per parlargli. E i messicani hanno avuto un grande privilegio nel rapporto con la morte. Sono l'esito di due grandi concezioni terribili della morte. L'una è quella del loro ancestro azteco, che dovevano massacrare e squartare persone perché, per rimanere vivi, per permettere che il mondo non si fermasse. E l'altro è stato quello della conquista della controriforma spagnola, il barocco, che è il trionfo per eccellenza della morte. Noi ci rendiamo conto che esiste Dio perché dobbiamo vedere continuamente i teschi che ci ricordano che siamo passeggeri. E la rivolta del messicano è stata quella di fare una grande festa. Quando si muore i teschi ballano, gli scheletri ballano, si accoppiano, fanno festa sulle tombe. E questo però è un privilegio che non ci tocca. Noi, o perlomeno noi, non abbiamo una forma di elaborazione. Questo è il tema di oggi. Come elaboriamo oggi la morte, se i cimiteri sono diventati delle discariche? Paolo. Buongiorno maestro. Ma maestro di che? Sì, maestro. Maestro. Non prendiamoci saluti per il anche tempo. A Sansonna. No, sì. A me succede questa cosa. Io dovevo andare a trovare pratica degli amici, perché come educazione quella morti. Del classico 2 novembre, andare al cimitero a far visite ai morti, però questi morti qui non ci sono al cimitero, perché almeno qui da noi è una città di 60.000 abitanti. Qui che dove città è? Città di Massa, Massa. Massa Carrara. Che succede? Che in pratica ora la moda è fare le ceneri, cioè cremare le persone e portarsele a casa. Poi di marmo ne avete da buttare via voi, voglia far tombe. E invece no, c'è questa cosa qui. Io fra l'altro sono andato ieri a far visita a uno, e lo sconcertante, ma non è una barzelletta, che l'hanno messo in casseruola. Una cosa... Come in casseruola? Presente la casseruola, quella era una casseruola che gli aveva regalato a questo tizio la nonna, e la figlia, era un mio coetaneo, una persona di 54 anni che è mancata quest'anno, l'ha messa in questa casseruola perché era l'oggetto più vecchio che era rimasto di si sta diventando un po' una moda fighetta quella di tenersi le cenere in casa. Esatto, però... poi oggi ce ne ho 4 o 5, io di amici ne avrei 4 o 5, ma vuoi andare a bussare a casa di tutti, poi da tutti quelli che vai devi stare a discutere, insomma. Il cimitero era un giro unico che vedevi queste persone, ce l'avevi lì quel giorno che ti giravano le scatole anche durante l'anno che ci volevi andare, andavi. Quante giornate di fuga da scuola ho passato al cimitero. Era il posto più bello e più improbabile nei giorni lontani al 2 novembre per essere beccati per andare. Però un bel giardino, c'erano luoghi appartati, si faceva volentieri sega a scuola per andare al cimitero. Ora da voi non succede, però per dire, qui c'era il classico giro che tutti gli anni facevi il giro e dicevi: oh, è morto anche questo, è morto anche quell'altro. Cioè, ecco, una bella soddisfazione. Sì. Quelli che mancavano qui in una città piccola dove ci conosciamo tutti, in pratica che mancavano, te li ritrovavi al cimitero. In pratica hai il dubbio che qualcuno sia accanto. L'idea che esistesse un luogo fisico che ci permettesse di fare un passaggio nello spazio per avere questa sorta di uscita dal tempo, ricordarsi anche di chi non c'è più, aveva un senso. Io sono convinto che il cimitero avesse avuto un grande senso nella nostra civiltà pre-industriale e post-industriale e contemporanea, non so prima e dopo come fosse, non ho esperienza di quello, però questo senso si è perduto oggi. Vorrei capire qual è il sostituto del cimitero. Giuseppe, hai un'idea? Effettivamente creava un tempo e uno spazio alla memoria, quello che dicevi tu, il poter passeggiare, il poter appunto guardare questi volti che ti guardano e suggeriscono una vita, suggeriscono micro storie, frasi anche lasciate sulle lapidi, che aprono mondi diversi, mondi interessanti anche. Soprattutto era per tutti, perché prima dei cimiteri le persone celse avevano la dignità di una lapide, le altre avevano la fossa comune, sì. Una croce buttata lì, c'era uno smaltimento veloce anche della memoria fisica di chi non aveva lasciato tracce indelebili. Poi anche le tracce indelebili diventano molto labili quando passi su queste tombe. Se vai al cimitero Verano, sono le tombe di grandissimi poeti, di illustri letterati, uomini politici. Beh, vedi come vai anche dentro il Vittoriano, sono tutti quei busti degli eroi del Risorgimento. Beh, vedi, passato il tempo, anche le vestigia funebri lasciano il tempo che trovano, siamo veramente tutti uguali. Ilenia, buongiorno. Buongiorno. Ma ecco, guardi, io ho un curioso uso e costume legato al cimitero che non ho ritrovato in tantissime città. Nella mia città, che è di provincia, che è Carpi, in provincia di Modena, quando si fa visita ai morti in questi giorni, insomma, per queste festività, si deve lasciare un biglietto con scritto: è passata a trovarvi la famiglia tal dei tali. Questo perché non solo basta ricordarsi del morto e fare visita a una persona che sta, ma bisogna lasciare la prova, cioè il cimitero è anche la prova che... E oggi avete messo i tornelli, si striscia una carta, cosa succede? No, c'è un'associazione di beneficenza che vende, dà in cambio di un contributo plichi di questi biglietti già prestampati con immagini sacre di solidarietà, con scritto ricordiamo il defunto in questo giorno. Con lo spazio bianco con il nome del defunto, però uguale per tutti. Sì, uno compila con i dati e lascia, appende ai fiori o alla lapide questo biglietto a prova. Ma se piove? Dipende da dove è la tomba. Se piove, sai che non ci ho pensato, probabilmente il prossimo anno mi dovrò portare bustine trasparenti impermeabili. Basta semplicemente fare dei prestampati su plastica, non lo so. Effettivamente potrebbe essere il business del futuro, però sì. Le assicuro che si contano i biglietti alla fine di questi ponti e si guarda, allora questo dell'anno scorso è venuta, ma l'anno scorso era venuto lo zio del fratello. Quindi diventa un controllo sociale anche del ricordo funebre, lei vedi questa infame della cognata non è venuta a portare il biglietto sulla tomba della nonna, che lei ha lasciato il comò e a me invece ha lasciato soltanto una sedia sfondata. Questo poi è la sintesi. E si rompono amicizie in vita poi. Avrebbe ancora un senso il cimitero se servisse a regolare o sregolare rapporti tra i vivi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma siamo sicuri che non è uno scherzo? È morto davvero? Chi vuole che sia morto per finta? Da lui questo ed altro. Neanche una lacrimina. Me le ha già fatte piangere tutte. E poi si piange quando muore qualcuno. Ma non è morto nessuno. Cos'era? Niente. Un granché non è mai stato. Però a me mi piaceva. Anche a me. E a me no. Ma poi è proprio obbligatorio essere qualcuno. Bello è lo stronzo del figliolo. E quella stronza. Porca puttana, come vorrei che venisse fuori un funeralone da fargli pigliare un colpo a tutti e due a quelli. E migliaia di persone, e tutti a piangere. E corone, telegrammi, balde, balziere, puttane, militari. I righi. Ma che è successo? Ma il boss non era morto? Quello è come i gatti, ha sette vite. E quell'altro? Com'è finito là dentro? Era un traditore. Abbiamo dovuto eliminarlo. La burla dei amici miei nel confronto di un povero sprovveduto che fanno credere di essere entrato in una sorta di organizzazione mafiosa. Quando muore uno di loro, continua la burla e fanno finta che sia morto perché è stato un regolamento di conto interno. Questo è un altro degli aspetti della morte che spesso innesca degli elementi grotteschi, la casseruola di prima, dell'ascoltatore. Vabbè, in questo caso i goliardi anzianotti di amici miei davanti alla morte... Sono tutti morti poi, davvero. Sì, sì, praticamente sì. Bernard Blier è il Righi, il bischero che loro dileggiano e diventa l'occasione di ridere anche della morte del loro caro amico, cioè di elaborare quel sentimento forte che scuote nervi, che spesso ai funerali innesca risate vere e proprie. Loro lo scaricano su questo, reinventando una storia, cioè appunto continuando la parte dei finti gangster che appunto parlano di un tradimento e di un'uccisione del loro complice che è dovuto morire. Insomma. Pensa, insomma, se uno di noi muore entro poco tempo, chiederanno questa trasmissione, la manderanno in onda. Parlavano di morte, vedi, e poi sono morti. Diventerà di culto. Come fosse una sorpresa. Andiamo avanti, Ornella, buongiorno. Buongiorno. Telefono da Brescia. Sì. Io volevo raccontare che quando ero piccola andavo, la nonna mi portava sempre al cimitero, ma per me era un piacere perché la nonna si metteva con la seggiolina sotto questo albero enorme e io giocavo, mentre lei diceva il rosario, giocavo con gli aghi del pino, giocavo con la resina, per me era una cosa bellissima. Sì, perché uno dei pochi giardini pulitissimi e poco frequentati. Dove non vanno i cani a fare i loro bisogni, dove sta tranquilli. Non ci sono i maniaci, cioè il cimitero di solito è un bel posto. Era almeno. Il cimitero era diventato veramente un posto bello, non triste, così come lo descriveva l'altra ragazza. Io voglio dire questo. Poi la nonna aveva una cosa, faceva una cosa strana con me, con un gioco. Quando passavamo dalle tombe, diceva: guarda questa signora è stata una brava mamma. Facciamo un gioco, questa bambina sai sarà morta perché avrà avuto male al polmoncini, e lei mi raccontava la storia, inventavamo le storie su queste persone morte. E io tuttora, che ho tanti anni, lo faccio ancora quando vado al cimitero, faccio sempre la stessa strada delle lapide, guardo e dico: questo signore, per me questo signore, riesco addirittura a vederlo e dico: era zoppo. Cioè si inventa una Spoon River immaginaria sui morti. Sì, veri. E a volte ci azzecco anche, perché poi non azzardi su di noi ipotesi, perché ancora oggi faccio delle ipotesi di cos'era. Addirittura immaginavo questa signorina che vedevo su questa tomba. Metti le mani sul tavolo. Tienile anche tu le mani sul... Sì, prego, signor. No, il sonno ha tolto le mani dal tavolo. Anche dicevo, lui. Questa signora, secondo me, addirittura parla in un modo strano. Non so, vedevo questa bocca un po'. Mi dava l'impressione che parlasse... Poi ho conosciuto la però lasci scritto a qualcuno questa bella usanza, perché così quando toccherà anche a lei qualcuno passerà e dirà di lei: questa signora che raccontava le storie a tutti i morti del mondo, adesso chissà cosa potranno dire di lei. Inventeranno cose terribili e diventano poi miei amici, perché poi quando passo saluto, no? Dico: ciao Emma, ciao Marco, ormai per me sono... E loro salutano e rispondono. Va bene, Ornella, in bocca al lupo, buon divertimento. Oggi è il 2 novembre, la sua giornata di libera uscita. Gianluca. Sì, salve, pronto, buongiorno, io chiamo da Verona. Volevo semplicemente porre l'attenzione sulla differenza tra l'architettura dei cimiteri nostri, anche quelli belli intendo, quelli chiamiamoli foscoliani, e rispetto a quella inglese per esempio, dove sono scuole diverse. Scuole assolutamente diverse, sì, ma il bello, adesso prescindere da appunto dalla derivazione, il bello è che a Londra, per fare un esempio, oppure per dire qualsiasi altra città inglese, tu puoi passeggiare, trovi i bambini che giocano, le mura sono basse, riesci a viverle in maniera quasi naturale, come faccia parte di una vita attiva ancora della zona, ecco, diciamo così. Guarda, mi fa venire in mente un episodio personale. Sì, ho presente i cimiteri inglesi, a parte per averli visti, in molte nostre città dove sono i cimiteri di guerra dei caduti inglesi, si vede la differenza rispetto ai nostri cimiteri. Esattamente. A Pisa, esattamente. E mi potrà confortare qualche pisano, esiste un cimitero praticamente assorbito dalla città, un vecchio cimitero. C'è il piazzale di una pompa di benzina e accanto c'è un cimitero. Una notte mi ci hanno portato degli amici miei pisani, scavezzacollo. Dice: guarda, qua c'è un cimitero. Sembrava impossibile, vero? Dietro il lavaggio delle auto, dietro i bidoni del catrame, dei cambi dell'olio, ci sono delle tombe. Stanno lì, buttate lì in mezzo alle erbacce. Cammina, a un certo punto mi hanno fatto vedere una tomba, c'era la mia foto. Avevano fatto una finta lapide in vero travertino con la mia foto, la data di nascita e di morte. E mi lasciarono solo davanti alla mia tomba. Per un attimo ebbi un momento di uscita dal tempo. Ugo, buongiorno. Buongiorno. Nicoletti, io volevo raccontare una cosa simpatica. Sì, ma questa è una leggenda metropolitana, io non ci credo. Comunque la racconti. Perfetto. Allora, se la dica lei, buongiorno. Sì. La dica. Ah, la devo dire. Certo, anche allora, se è una leggenda metropolitana. Col sì. Semolino, la cioccolata, sì. Dopo la guerra. Arrivò una scatolina e non sapevano che cos'era. Ma dove, questa casa sua? No, nel mio paese. Ah, suo cugino le ha detto. E così assaggiavano con il polli, col dito, e assaggiavano. Era in sapore. E non sapevano se che ci dovevano fare questa cosa. E la mettevano un cucchiaino dentro la minestra. E nello stesso tempo, è passato del tempo, è arrivata la posta dall'America, perché arrivava in ritardo, perché scrivere, sì. Beato Dio, quando scrivevano, e gli dissero che era morto nonno Peppe, gli hanno mandato le polveri. Ah. E che si meravigliarono che aveva mangiato nonno Peppe. Si vede che se sono sopravvissuti, in fondo, sai, cenere. Va bene, grazie. Questa però è una nota leggenda metropolitana, quindi anche lei l'ha fatta sua, ma fa parte comunque delle maniere di elaborazione della morte. Andiamo avanti con l'ultimo pezzo. Ti ricorderò sempre, Formichella, quando accompagnandoti con la chitarra cantavi: io sogno sempre i baci tuoi, i baci mendaci tuoi, i baci mordaci tuoi, mortacci tuoi. Questo era l'epitaffio funebre dei comici al loro collega, che poi alla fine denigravano, odiavano. Sì, più che altro era un modo di recuperare, attraverso la morte di un eroe dall'avanspettacolo, recuperare quello spirito messicano in Italia, appunto, cioè diventa subito una festa da rivista con Alberto Sordi con la bombetta, che si mette appunto a imitare il mondo. Slittano velocemente verso i ricordi amari di quanto fosse cattivo e crudele questa persona seppellì. Più che altro c'è il dileggio, non c'è appunto la retorica della lacrima, della monumentalizzazione del morto, che accade spessissimo quando muore una persona. Diciamo la verità, i vivi in fondo fanno sempre una festa quando muore qualcuno che non sono loro, e questo è in realtà. Claudio ha un iter esistenziale molto importante, le diamo il privilegio di chiudere questa trasmissione. Beh, grazie Nicoletti. Tre fotografie: la prima, quando ero piccolo facevo il chierichetto, quindi la giornata dei morti per noi era celebrazione, liturgia e grande incenso, quindi l'odore dell'incenso era la rappresentazione proprio della serviva a coprire l'odore del morto, non era proprio piacevole. La seconda, amavo poi in gioventù andare proprio senza motivo nei cimiteri a curiosare, a vedere le opere che l'uomo potesse fare attorno a questo, diciamo, avvenimento. E terza fotografia? Io seguo un'azienda che praticamente fa forni crematori, e scoprire che noi siamo veramente, Nicoletti, dei rifiuti. Certo. E i rifiuti da smaltire, quindi c'è tutta una serie di pratiche da seguire, perché comunque noi in qualche modo dobbiamo... Ma quindi lei diciamo è un piazzista di forni crematori, cioè va in giro a venderli? Diciamo che non sono un piazzista, mi occupo della parte tecnica. Le posso garantire che nei bandi di gara, nei comuni, nei grossi centri, il numero di bruciate si chiama. Che qual è il suo slogan? Sintetizzi in uno slogan il suo prodotto, come facesse una pubblicità. Lo slogan del prodotto è siamo cenere, torniamo cenere e dobbiamo essere smaltiti in modo etico. Perfetto, benissimo, equo e solidale. Anche, abbiamo aggiunto al memento mori classico anche l'aggiunta equo e solidale, che mi sembra la cifra essenziale della nostra trasmissione, che in fondo voleva evitare che il cimitero fosse soltanto una discarica. Grazie Sansonna, grazie a quanti ci hanno seguiti, vivi e morti, a domani. Ascoltate, Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Vi ha presentato Melog 2.0. Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.